presenti, così all'improvviso, in punta di piedi, silenziosa, invadi la mia mente. Punti la pistola e ti appropri della mia felicità, divertendoti a tenerla in ostaggio fino all'estremo. Non mi resta che rinchiudermi nelle mie quattro mura. Noia assassina, oggi hai vinto tu, domani gioco io.